tradito, che alle tue mani ha negato calore, che si conquista in un'ora d'amore. E questo mattino di grigia foschia, di colpo hai deciso di andartene via. Piccola Katy, vai, vai, piccola Katy, vai, vai, sentir.